sui panni di un altro, una versione nuova della realtà. Cerco di evitare lo scontro, ma se ci arrivo sono senza pietà. Sono una goccia che insiste, un tam tam che martella, pesante come un attimo, una teoria che resiste, un Pierrot che non molla, leggero come un secolo. Ammetto di non sapere, sarei perfetto ma ne manca metà, e fingo di non capire se nel cassetto tutto non ci sta. Sono forte, insicuro, troppo e poco maturo, pressato dal futuro. Sono l'eccellenza peggiore, guardi, mi scusi dottore, ma è mio questo dolore. Voglio un ruolo nella nostra odissea, anche se improvvisamente andassi via. Cedo il mio posto in prima fila, in platea, cammino al buio senza fare in galleria. Indosso i panni di un altro, un'altra ipotesi della realtà. Se posso ti vengo incontro con la bocca piena di onestà. Sono sempre il giro più lungo, ma anche la strada più bella, pesante come un ninnolo, un posto che non esiste, un pugile che barcolla, leggero come un vincolo. Mantengo fermo il punto, resto in trincea sopra il divano comodo di casa mia. Se nulla si distrugge, niente si crea, dove finisce allora tutta l'energia? Insicuro, troppo e poco maturo, pressato dal futuro. Scelgo sempre il male minore, non si permetta dottore, è mio questo dolore. Voglio un ruolo nella nostra odissea, anche se improvvisamente andassi via. Cedo il mio posto in prima fila, in platea, cammino al buio senza fare in galleria. Mantengo fermo il punto, resto in trincea, sopra il divano pavido a casa mia. Se nulla si distrugge, niente si crea, dove finisce allora tutta l'energia?